Un saluto da Max Macchia per 451 frammenti sonori, un saluto che ovviamente va sia a chi ascolta in diretta sia invece chi ascolta insomma dal blog o in altre maniere, insomma, quindi indirettamente. Ah, poi insomma, in questo senso qua, e per sicuramente chi parla dietro il microfono a diretta ha un certo significato, beh, per chi l'ascolta ovviamente ne ha un altro, o se non proprio forse non ce l'ha, ma senza insomma divagare rispetto già appunto all'inizio, ma una mia grande capacità quella di riuscire a divagare addirittura appunto partendo divagando. E 451 con antichi disturbi, antichi perché vengono da molto lontano i suoni che ascolteremo, seppur musiche che rompono poi lo spazio-tempo e si portano a noi e si spostano anche verso un suono futuribile, seppur prendendo insomma da sonorità che affondano insomma le radici addirittura in termini folclorici. E anche forse insomma evocando insomma, qualche stregoneria, qualche strega, qualche magia sonora, ma anche così in termini di immaginazione, di immaginazione surreale, surrealista anche, e sentiremo insomma non come incipit, ma sicuramente come secondo pezzo lancio surrealista assolutamente francese. E poi insomma in questi giorni ci vuole, come dire, tanto insomma di cappello, chapeau, ecco, ai francesi che sono in piazza e a farsi sentire rispetto appunto a delle cose che appunto in termini parlamentari magari vengono così come dire aggiustate, ma poi nella realtà appunto di quello che insomma vive la maggioranza, la stragrande maggioranza appunto della popolazione, non è così aggiustabile, quindi si va in piazza, si va anche piuttosto determinati, cosa che così avviene in maniera un po' più statica da queste parti, tanto per usare un eufemismo. Ma 451 appunto, oltre che la Francia, oltre che insomma il surrealista, andare a trovare soprattutto quello che è un progetto molto, molto interessante che tra l'altro passerà proprio tra due settimane qua a Bologna, progetto legato a Jan Gourdon e all'Ardigardi, la ghironda, strumento che viene appunto da molto lontano, che in questo senso è molto, molto antico. E, disturbo perché antichi disturbi. Disturbi sono dati da queste appunto frequenze che così rompono quello che potrebbe essere insomma interpretato e interpretabile come storia pacificata anche rispetto anche a un'immagine folclorica molto edulcorata, molto spesso insomma viene evocata da vari proloco insomma per l'industria dello straniero, ecco, e appunto folclori così molto così annacquati. Invece qua andiamo a trovare qualcosa che nasce decisamente disturbato, ma perché appunto disturbato, attraversato da magie, anche forme così di illusionismo, in questo caso molto legato al suono, un suono illusorio, ma quanto anche poi terreno appunto rispetto a un percorso che è addirittura appunto secolare, se pensiamo appunto a Jan Gourdon francese, e qua non l'ho fatto apposta, come dire, Gourdon che grande suonatore appunto di Ghironda, che tra due settimane, il 5 aprile, sarà proprio a Bologna, organizzato da Annual Nebbia Acustica, collettivo che si occupa insomma di musiche altre, il collettivo tra l'altro anche formato da musicisti. Sarà in via Ludovico Berti 2/10, quartiere Saffi, una casa concerto, siccome è anche un po' colonia americana, quindi potremmo dire anche loft, in America direbbero così, insomma fa molto più figo, ecco, ma in realtà insomma chiamiamola casa concerto, che appunto, ripeto, in via Ludovico Berti 2/10, tra due settimane, appunto 5 aprile, Young Gourdon, ci sarà anche il progetto Organ 2/3 di Lorenzo Valdessalici e Mario Guida, quindi insomma serata particolarmente interessante, e abbiamo voluto unire quello che è il percorso insomma di Gourdon, uno dei maggiori musicisti legati al Ghironda, con quello che possono essere sicuramente riferimenti sia per lui, anche insomma per noi ascoltatori curiosi, indagatori di certe musiche, e quindi come non iniziare con Filler Band. In realtà poi non sarebbe neanche Filler Band, nel primissimo periodo, in maniera molto stramba, anche qua molto surreale, si fanno chiamare National Balkan Ensemble, in realtà riprendono molto delle musiche molto molto inglesi, poi anche se poi c'è un riferimento in realtà anche a musiche che potremmo definire insomma anche balcaniche, ma di un così musica trovatori, che potremmo dire così, visto che dopo troveremo anche l'Occitania, e quindi di viandanti, ecco, in questo caso insomma non tanto il divagare ma poi vagare, quindi il portare le musiche in giro per quello che era appunto il mondo di un tempo, insomma l'Europa di un tempo remoto, che però appunto tanto si vuole da non renderlo più tale, appunto per sonorità che vanno poi a incrociarsi con la raga music indiana, con quello che è il drone, quindi il primo minimalismo, e forme di psichedelie che verranno insomma prese iosa da altre che verranno insomma dopo Filler Band, in questo caso insomma National Balkan Ensemble, Cosmic Scale o Cosmic Trip anche chiamato, questo pezzo appunto stampato così in una maniera molto carbonara nel 67 da National Balkan Ensemble, poi dopo rieditato insomma in varie forme bootleg poi più o meno ufficiali. E quindi iniziamo questi antichi disturbi per 451 frammenti sonori. Thank you. Zhuwa Tsnyote Nyote Hara Gyote Hara Gyote Ze Soa Kahanya Singyo Otoli Ma Ye Sedem Akali Ma Deme Le Kwa Terwa Aki No No No Ne Demo El Mamu El Una El Yo in piena allucinazione surreale, surrealista e un nomade nello spirito, nella musica e anche insomma fisicamente, Ghedalia Tatarté, prima insomma avevo citato il francese, per un attimo scordandomi anche di Yann Gourdon, insomma un personaggio chiave per questa serata qua, e lancio anche per il concerto del 5 aprile in via Lodovico Berti 2/10 a Bologna, quartiere Saffi, alle ore 20 appunto, quando ci sarà Yann Gourdon, e beh, con sicuramente con Tatarté si va ai papà, ecco, di un modo di intendere per tanti veramente che hanno come dire quantomeno errato in termini musicali, sonori, di sperimentazioni, veramente un ponte eccezionale tra tante attitudini, veramente dal concretismo elettronico appunto evocazioni quasi così di mondi lontanissimi, evocazioni stregonesche, però appunto non soltanto qualificabili o inquadrabili come come europee, ma qua andiamo a trovare anche zone asiatiche, ma perché no, anche come per National Balkan Ensemble, Führer Band, è proprio quel spazio-tempo che si rompe in maniera eccezionale e che quindi riesce a prendere così piede in una maniera veramente trans e cross genere. Fino a creare musiche che hanno la possibilità di creare altre musiche ulteriormente, quindi hanno quella futuribilità all'interno, data da questo vagare così forte, così intenso, che appunto si rompe quello che una linearità, potremmo dire, spazio-temporale. È un po' come tanti progetti, insomma, di Ian Gourdon. Ascolteremo France, Le Verdouble, e appunto per concludere proprio un pezzo in solo di Ian Gourdon con France. Si va a prendere quello che è un progetto molto molto legato al folk drone, alla musica ripetitiva, anche a un suono molto denso. In questo senso, insomma, i padri Führer Band, o come insomma National Balkan Ensemble, appunto Gedalia Tazartes, funzionino tra le corde appunto della ghironda di Ian Gourdon e dentro appunto il progetto France Occitan, è proprio il disco che è una parte del disco che andremo a ascoltare adesso, dove si sviluppa anche un suono molto molto potente che va quasi a rincorrere un drone che poi in alcuni frangenti nei progetti insomma di Ian Gourdon addirittura sforcerà anche in una sorta di drone folk metal. Sì, è un po' tutto molto molto paradossale, ma se non ci avessero appunto abituati i francesi a questo punto, anche se poi abbiamo iniziato con degli inglesi, assolutamente National Balkan Ensemble, Führer Band, inglesissimi, potevamo anche mettere qualche bardo italiano, ma tant'è che insomma questa sera puntiamo più verso appunto le terre francesi, in questo senso appunto l'Occitania, quindi un po' ci vuole veramente il vagare del trobadorico che porta insomma e diffonde musiche e mischia poi riesce a mischiare le carte per creare qualcosa che appunto è sempre qualcosa di nuovo, se non prendesse insomma le pieghe di fesserie commerciali, ecco, quindi intendiamoci su questo su questo nuovo come suono, come possibilità, ecco, data dalle composizioni dalle sperimentazioni che vengono appunto da questi percorsi. France, appunto, Occitan, la prima parte, appunto, qualche minuto di questo disco anche piuttosto potente, adesso sentirete. sul serio chiedo perdono questa volta a Venia, anzi, perché insomma è quasi, anzi è oltraggioso insomma sfumare un pezzone, adesso ci vuole proprio di questo calibro, ma tant'è insomma che comunque per chi voglia godere insomma di Jan Gurdon avrà modo di farlo insomma il 5 aprile alle ore 20 presso appunto la Casa Concerto, così l'ho voluta ribattezzare, quartiere Saffi, via Ludovico Berti 2/10, e ci sarà insieme a lui Organ 2/3 e Mario Guida insieme a lui insomma, e, prima di lui non insieme. Insieme a Jan Gurdon invece abbiamo sentito Franz prima, che è un progetto di Jérémy Sauvage e Mathieu Tilly, e poi questo meraviglia che è Le Vert Double di Jan Gurdon con Ivan Etienne. Tra l'altro Franz esiste ancora come progetto, mentre le Vert Double dopo due dischi fenomenali non esistono più. E tra l'altro magari vi dico anche che cercherò anche di recuperare magari un ascolto insomma più diffuso proprio i lavori delle Vert Double, magari facendovi ascoltare anche una parte dell'altrettanto bello primo disco, magari appunto in maniera più lunga, più diffusa e più dronica anche, insomma, perché si sviluppa il drone ci vuole anche un po' di tempo, poi i detrattori potrebbero dire che è proprio quello insomma che ammazza, ma andatone da questa parte non ci sono dettatori del drone, anzi tutt'altro. E vi ricordo insomma che appunto il 5 aprile è organizzato da Annual Nebbia Acustica, e tra l'altro un tour di Jan Gurdon toccherà anche Milano al locale Volume, e poi dopo il 5 qua a Bologna, il 6 aprile a Roma alla Fanfulla. Per concludere musicalmente ovviamente io vi lascio appunto con una composizione in solo a questo punto di Jan Gurdon per questi antichi disturbi appunto di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia. Andiamo a prendere da un album omonimo del 2021 con la sua ghironda, avete sentito, no? Che diavolerie droniche, veramente di grande vocazione sonora riesce a creare appunto Jan Gurdon. E per appunto lasciarvi con ancora la sua ghironda, questo antico strumento che ha accompagnato buona parte di questa ora di 451 frammenti sonori, appunto un disco omonimo del 2021 del nostro francese Gurdon. Vi rimando alla prossima, fate bravi. Insomma, mantenetevi sempre su delle frequenze così piuttosto buone, piuttosto disturbate. E ciao da Max Macchia appunto con Jan Gurdon.